Il prezzo perché paghiamo vuole un po' raccontare questa relazione tra cause e conseguenze. Spesso si parla di crisi climatica, ma raramente si parla di chi sono i responsabili di questa crisi climatica e da dove arrivano le emissioni che poi causano gli eventi atmosferici estremi. Anche perché poi a pagare di più siamo sempre noi cittadini e cittadine. C'è questa anche discrasia, no? Tra chi produce la crisi climatica e poi chi ne paga le conseguenze. Sì, da una parte abbiamo le compagnie dell'oil and gas che per decenni hanno rallentato, oscurato, nascosto anche rapporti, come abbiamo potuto documentare nel documentario, e ancora oggi ritardano in vario modo con attività di greenwashing, con la manipolazione all'interno della comunicazione, con la presenza anche dentro il mondo del giornalismo. Basti pensare all'enorme quantità di denaro che c'è dentro, no, le sponsorizzate, come viene detto, cioè nei giornali principali, ma non solo nei giornali, anche nelle attività culturali, nei festival. Tutto questo ha un preciso scopo, che è quello di rallentare l'azione per mitigare o in qualche modo prendere dei provvedimenti su quello che è la prevenzione alla crisi climatica, e quindi banalmente smettere e ridurre le emissioni di CO2. Anche nella presentazione appunto del tuo documentario viene reso evidente che la crisi climatica c'è già, l'abbiamo già vista, e ci sono dei territori che tu prendi in esame? Sì, noi abbiamo scelto di partire proprio dall'Emilia Romagna, da alcune voci, da alcune storie umane, per far capire che anche una persona come un'agricoltrice che produce la frutta, la verdura, per tutte e tutti noi, è la prima persona che può essere impattata. Partiamo da questa storia umana e chiudiamo su altre storie umane in Basilicata, che è un altro territorio impattato fortemente dall'industria del fossile, perché non tutti lo sanno, ma la Basilicata è la regione col più grande giacimento petrolifero in Europa, su terraferma, e anche lì c'è chi ha pagato il prezzo del petrolio, ovvero persone che o sono state costrette ad andare via o chi è rimasto paga in qualche modo l'inquinamento. Tu prima parlavi delle attività di lobbying anche di queste multinazionali, ovviamente, come dire, anche la PIL, chiamiamolo così, sulla politica è molto forte, anche se qualche anno fa in Europa sembrava che fosse cambiato il vento. Adesso, come dire, è già stata archiviata la transizione energetica? Mi sembra che un po' il mondo, la transizione si sia rallentata, c'è chi ancora nega addirittura e c'è chi in qualche modo non guarda alle conseguenze catastrofiche che stiamo vivendo e si prendono ancora certi fenomeni atmosferici estremi come se fossero occasionali, no? E lo vediamo dall'utilizzo anche del linguaggio e delle parole. Se continuiamo a parlare di maltempo, ovviamente anche la classe politica che dovrebbe orientare delle scelte non agisce. E quindi c'è anche una responsabilità nostra, no? Di chi utilizza il linguaggio, di chi utilizza le parole, di chi utilizza le immagini, nel dover in qualche modo fare delle scelte di responsabilità. Questo è un documentario che vuole fare un po' quello, unire i puntini, collegare le cause e le conseguenze ed esercitare un senso di responsabilità verso le generazioni, soprattutto future. Ed è per questo, insomma, che appunto anche utilizzando il linguaggio i movimenti parlano di giustizia climatica. Sì, è quello di cui parliamo anche nel documentario, all'interno del documentario, che se non c'è giustizia climatica ci saranno sempre le persone che rimarranno indietro e a pagare poi i prezzi più alti saranno proprio quelle persone più vulnerabili, le persone razzializzate, le persone con una classe sociale molto più bassa, e lo vediamo, è una delle storie che abbiamo inserito proprio nel prezzo che paghiamo, cioè chi si può permettere poi di ricostruirsi la casa davanti a un'alluvione, chi si può permettere di ricomprarsi magari l'auto, no? Quando perdi tutto, a pagare siamo noi poi.